Mezzogiorno di Simone Spezia. I profughi ammassati al confine tra Grecia e Macedonia sfondano la barriera di protezione, scontri con le forze dell'ordine che lanciano lacrimogeni. Attivo intanto il corridoio umanitario dalla Siria, 93 rifugiati arrivano in Italia. Sono 6 le vittime per l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, 5 persone al sud, mentre poco fa la notizia di una donna che ha perso la vita nel Cuneese, allerta per i fiumi in Emilia-Romagna. A Mosca una donna uccide una bimba e la decapita, poi in mezzo alla strada urla Allah Akbar, era la babysitter e lavorava con la famiglia da un anno. La notte degli Oscar porta 2 statuette molto attese, premio alla colonna sonora per Ennio Morricone nel film di Tarantino e finalmente quello per miglior attore protagonista per DiCaprio. La vittoria dei riformisti in Iran hanno ottenuto la maggioranza nell'assemblea degli esperti, quella che dovrà eleggere la nuova guida suprema. Dopo il successo di ieri della Juve, attesa per oggi la risposta del Napoli, partenope in campo contro la Fiorentina. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci e il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. In apertura dunque andiamo a sentire che cosa sta succedendo sul confine tra Grecia e Macedonia, dove ci sono stati momenti di fortissima tensione. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, si moltiplicano gli scontri e sale la tensione sempre di più tra il confine tra la Grecia e la Macedonia. Confine che si apre e si chiude a giorni e ore alterne. Decine di migranti questa mattina, armati di pali e lanciando sassi al grido di aprite il confine, hanno cercato di abbattere la rete tra i due paesi per entrare in Macedonia. Alcuni gruppi sono riusciti a forzare il cordone della polizia greca, hanno occupato i binari della ferrovia, hanno sfondato un tratto della barriera, ma le forze dell'ordine macedoni sono subito intervenute, sparando contro di loro gas lacrimogeni e spingendoli. Si tratta di circa 500 persone, secondo la polizia, irachene e siriani, che hanno forzato il valico proprio per protestare contro il tetto massimo all'afflusso giornaliero di rifugiati fissato dalle autorità macedoni. Lo ricordiamo che la Macedonia si è accordata in una decisione del 18 febbraio scorso, da cui è stata esclusa la Grecia, insieme ai paesi balcanici, di limitare a circa 580 il numero massimo giornaliero di ingressi, e le autorità macedoni avevano autorizzato questa notte il passaggio di circa 300 persone. Poi hanno chiuso immediatamente la frontiera. Intanto Simone, sempre in Macedonia, si sono avviati i lavori di costruzione di una nuova recinzione al confine con la Grecia, lungo la strada che porta al campo di accoglienza temporaneo di Vinjug. Da ieri sera sono all'opera l'esercito e i reparti dell'esercito per innalzare una rete di filo spinato alta 1,5 metri. La scopo sarebbe quella di bloccare, soprattutto nelle ore notturne, gli ingressi per evitare che in tanti si disperdano nei boschi. Per il momento non ci sono notizie di arresti o feriti legati agli scontri. 6.500 persone circa si trovano al confine sul territorio greco, alcune delle quali anche da 8 giorni con riserve molto limitate di acqua e cibo. E Save the Children dice che c'è emergenza assoluta ai domeni. Secondo Save the Children ci sono 2.000 bimbi bloccati tra Grecia e Macedonia alla frontiera. Per ora tutto. Grazie Anna Marino. E c'è anche una situazione che riguarda la crisi umanitaria nel paese dal quale molte di queste persone provengono, ossia la Siria, perché potrebbero essere migliaia le persone morte di fame nelle aree assediate, dove risiede quasi 500.000 di persone. Lo ha detto oggi Zaid Rada al-Hussein, che è responsabile per i diritti umani delle Nazioni Unite, citato dalla televisione panaraba Al Jazeera. Anche per questo si sono aperti una serie di corridoi umanitari. I risultati di uno di questi primi corridoi li abbiamo visti questa mattina con l'arrivo di 93 profughi a Roma. Giorgio Stamatopoulos, buongiorno. Buongiorno, sì, esatto, ed è il primo gruppo di profughi siriani ad essere entrato nel nostro paese legalmente e in totale sicurezza dall'inizio del conflitto. Come ricordavi, si tratta di 24 famiglie, 93 persone in tutto, tra queste 41 sono i minori. In tasca per tutti un visto temporaneo ottenuto dal nostro consolato a Beirut, da dove sono arrivati questa mattina con volo all'Italia grazie al protocollo corridoi umanitari siglato tra governo italiano, comunità di Sant'Egidio, chiese evangeliche e tavola valdese, un progetto pilota che interesserà in tutto 1 migliaio di persone, che prevede l'apertura di altre 2, diciamo così, porte in Marocco ed Etiopia. Accoglienza programmata come strategia alternativa al blocco dei flussi migratori, e questo in estrema sintesi il messaggio dei promotori che oggi il ministro degli esteri Gentiloni, venuto ad accogliere i profughi qui in aeroporto, ha rilanciato all'indirizzo del resto d'Europa. E per il momento da Roma è tutto. Grazie Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento. Siamo adesso alle cronache dal maltempo che ha colpito l'Italia, che ha fatto fatto finora 6 vittime, si è aggiunta poco fa una donna che nel Cuneese ha perso la vita a causa della neve che si è staccata dal tetto e l'ha travolta. C'è allerta in Emilia-Romagna per il livello dei fiumi, nella fattispecie il Panaro e il Secchia, e alcuni ponti sono stati chiusi in via precauzionale. Tra poco tra l'altro andremo proprio in Emilia per fare un punto col direttore della Protezione Civile. Intanto al sud si contano danni e vittime. In Campania il vento si è placato, ma resta il mare mosso e restano soprattutto i danni prodotti dal maltempo. 2 morti, un marito e una moglie sessantenni a bordo della propria auto a Sessa Aurunca, nel Casertano. Lo scontro con un albero è stato fatale. Per 8 ore il vento ha flagellato ieri e ininterrottamente tutta la regione, toccati 150 km orari. Nel pomeriggio e in serata previste piogge. Disagi anche a Napoli, dove sono crollati diversi alberi e pali elettrici. A Poggio Marino, nella zona vesuviana, un semaforo, tale la forza del vento, è volato su un balcone. Tanti problemi anche in Calabria, dove a Candidoni, nel Reggino, un agricoltore è morto travolto da un albero con la sua auto. 2 i feriti a Vibo Valentia e Cosenza, tra cui un bambino di 8 anni in codice rosso. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E come si diceva, di maltempo torneremo a parlare più avanti. Veniamo alla politica adesso, perché dovrebbe iniziare a minuti la conferenza stampa del leader leghista Matteo Salvini, nella quale è presente i risultati delle votazioni avvenute nei gazebo per sapere chi sarà il candidato sindaco di Roma. Vincenzo Miglietta, buongiorno, abbiamo già qualcosa? Buongiorno Simone, ancora nulla, risultati che avremo però a minuti nero su bianco per delle primarie che ieri hanno coinvolto oltre 10.000 romani, ed è questo il risultato che sta più a cuore al leader della Lega. Una cosa andata oltre le aspettative, ha spiegato Salvini. Per quanto riguarda le preferenze, rimaniamo al momento a livello di indiscrezioni, ma vi sarebbe un testa a testa tra Alfio Marchini e Francesco Storace, con il primo che risulterebbe favorito. E questa, Simone, sarebbe una notizia per le conseguenze che evidentemente porterebbe nel centrodestra. Il nome scelto infatti da Berlusconi e Meloni, ossia quello dell'ex numero uno della Protezione Civile Bertolaso, non avrebbe convinto allora chi ieri si è recato ai banchetti del Carroccio. Se Bertolaso non entusiasma, a me non è un problema, aveva già avvertito Salvini, ma se non entusiasma neanche i romani, bisogna porsi il problema. Conto alla rovescia intanto sempre per la corsa per il Campidoglio per le primarie del centrosinistra. Domenica il voto, con una corsa che sembra profilarsi a 2 tra Giachetti e Morassut. Ora tocca a noi governare. Roma rilancia invece il Movimento 5 Stelle. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e con Vincenzo Miglietta torneremo a collegarci nel corso di Effetto Giorno per avere appunto il risultato di queste votazioni avvenute ai gazebo della Lega. Adesso ci spostiamo a Mosca per questa terribile vicenda di cronaca della quale vi parlavamo nei titoli. Sentiamo. Lavorava da un anno per la famiglia della piccola Anastia, la babysitter 39enne Giulcera Bobokulova, arrestata oggi dalla polizia nei pressi di una stazione del metro di Mosca, in una zona semicentrale della città. La donna, che aveva la testa della bimba in mano, urlava «L'Akbar, Dio è grande». In precedenza, in un appartamento del quartiere devastato dal fuoco, era stato trovato il resto del corpo della bambina. La babysitter, forse colta da un raptus, ha prima ucciso la piccola e poi ha dato fuoco alla casa. Prima di essere arrestata, minacciato di farsi saltare in aria, ma non è stata ritrovata nessuna cintura esplosiva e, nonostante le modalità, non sembra che il gesto sia riconducibile ad una matrice terroristica. Intanto i vigili del fuoco hanno salvato 4 persone dalla casa in fiamme. I genitori della piccola, che erano fuori con il figlio maggiore, sono ora in stato di shock e affidati alle cure degli psicologi. Hanno descritto la donna come una professionista sempre affidabile, anche se ultimamente era spesso nervosa e si lamentava del rapporto col marito, forse perché la tradiva. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci in Iran adesso, dove ci sono i risultati delle elezioni. Moderati hanno vinto la maggioranza dei seggi nell'Assemblea degli Esperti, raggiungendo il 59%, secondo i dati del Ministero dell'Interno. L'Assemblea degli Esperti ha il compito di eleggere la nuova guida suprema del paese. Sia il presidente Hassan Rouhani che l'ex presidente Rafsanjani, sono risultati eletti. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore a Teheran, Alberto Negri. Le elezioni in Iran confermano la vittoria della linea di apertura del presidente Hassan Rouhani, ma sono anche un trionfo per Hashemi Rafsanjani, detto lo squalo, il grande padrino della politica iraniana, uno dei fondatori della rivoluzione. Fautore di una via pragmatica e del compromesso sul piano internazionale, Rafsanjani è il vero protagonista da 37 anni della scena. Fu lui a decidere, insieme ad Ali Khamenei, l'attuale guida suprema, la successione ad Imam Khomeini quando morì nell'89. È stato Rafsanjani a segnare alcune delle svolte più importanti come l'ascesa alla presidenza del riformista Mohamed Khatami nel 97. Avversato dai conservatori più duri e puri, Rafsanjani si è preso una clamorosa rivincita. È al primo posto nelle elezioni per l'Assemblea degli esperti che dovrà decidere la prossima guida suprema. I conservatori e i radicali sono stati sonoramente sconfitti dai candidati moderati, mentre si attende ancora il risultato definitivo per il Parlamento, dove comunque gli schieramenti dovrebbero bilanciarsi. Rafsanjani, chiacchierato per avere le mani in pasta negli affari oltre che nella politica, uno dei figli medi è in carcere per corruzione, è un ottantenne che vuole decidere le sorti future della Repubblica Islamica. Sembra un paradosso, ma è quello che avviene in un paese che sta spingendo verso le riforme. Lo squalo naviga ancora da par suo nelle acque agitate del Medio Oriente. Come sapete è stata la notte degli Oscar, ci racconta tutto la nostra Marta Cagnola. Marta. Sì, una notte intensa tra statuette attesissime e un prevedibile coté di impegno sociale. I protagonisti sicuramente Leonardo DiCaprio ed Ennio Morricone. Per il maestro tutti in piedi, tutti commossi. Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, il fratellino. Morricone ha vinto per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. A parte quello, la carriera per lui a 87 anni, il primo Oscar alla sesta candidatura. Kodak Theatre in lacrime è anche lui. Buonasera signori, buonasera. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio Quentin Tarantino per avermi scelto. Dedico questa vittoria a mia moglie Maria. E finalmente anche Leonardo DiCaprio ce l'ha fatta. La suspense era tutta per lui. DiCaprio va a prendersi il riconoscimento che attendeva da anni. Thank you all so very much. Con la statuetta in mano ringrazia l'Academy, il regista Iñárritu, anche lui premiato, Tom Hardy, Martin Scorsese, e si lancia in un appassionato discorso a favore dell'ambiente. Non diamo per scontato il pianeta, io non davo per scontata questa serata. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Per le attrici nessuna sorpresa, come previsto Brie Larson per Room nella categoria principale e Alicia Vikander come migliore tra le non protagoniste per The Danish Girl. Niente favola per Sylvester Stallone, gli è stato preferito a sorpresa l'inglese Mark Rylance del Ponte delle Spie. Miglior film Spotlight sullo scandalo sui preti pedofili, con tanto di appello sul palco a Papa Francesco «è tempo di proteggere i nostri bambini». Miglior regista, come dicevamo, Alejandro González Iñárritu, per lui il secondo anno consecutivo, in una serata caratterizzata dal continuo riferimento all'assenza di neri nelle nomination. Ecco il suo discorso di ringraziamento. I very lucky to be here tonight, okay? Sono molto fortunato di essere qui stanotte, ha detto Iñárritu ricevendo l'Oscar, ma purtroppo tanti altri non hanno avuto la stessa fortuna. La nostra generazione ha la grande opportunità di liberarsi da tutti i pregiudizi e da questo modo di pensare tribale e far sì una volta per tutte che il colore della pelle sia irrilevante come la lunghezza dei capelli. Blackbird singing in the dead of night. Grandi momenti musicali e non solo, la Blackbird dei Beatles eseguita da Dave Grohl dei Foo Fighters per il toccante In Memoriam, nel quale è stato ricordato anche Ettore Scola, una notevole Lady Gaga in Till It Happens che però non ha preso l'Oscar come miglior canzone. L'Oscar è andato a Writings on the Wall dell'ultimo Bond. Infine, miglior film d'animazione Inside Out, miglior straniero Son of Saul, ungherese, più statuette di tutti, 6 a Mad Max Fury Road. Grazie, grazie dunque alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento. Invece parliamo di calcio adesso, lo facciamo con il nostro Carlo Genta che è in studio con noi. Questa sera sarà da vedere, Carlo, se il Napoli riesce a tenere la scia, no? E questa è la partita cruciale, Simone. Una delle partite cruciali di questo campionato si gioca proprio stasera, Fiorentina-Napoli. Entrambe ovviamente hanno grandi interessi in gioco, la Fiorentina per risorpassare la Roma, che si è arrampicata al terzo posto, e ovviamente il Napoli per provare a tenere la scia della Juventus. Però non siamo molto lontani da Hollywood, perché ieri sera è stata la serata di Leonardo DiCaprio, ma prima di Leonardo DiCaprio di un altro Leonardo, e cioè Bonucci, che ha aperto le marcature in Juventus-Inter. Juventus che ha vinto d'imperio contro un Inter piuttosto sconclusionata, ennesima bocciatura per Mancini, oggi le critiche si sprecano sull'allenatore dell'Inter e magari futuro tecnico della nazionale, perché queste sono le voci più ricorrenti. Allora Carlo, grazie intanto, e ovviamente questi saranno tutti temi per tutti convocati a partire dalle 14. Noi adesso continuiamo a parlare di sport, perché ci sono due casi che hanno fatto discutere nel fine settimana, e sono due casi di sportivi, per così dire, sovrumani. Curry for three! Stephen Curry from downtown! Uno sta cambiando il volto dell'NBA e del basket mondiale a forza di tiri da tre sparate da distanze siderali e che vanno sempre a canestro. L'altra sfida le leggi della medicina e della logica, gareggia nella Coppa del Mondo di sci con una microfrattura al ginocchio e vince pure. Se il campione è soprattutto quello che sposta i limiti del possibile umano, ecco che la definizione calza a pennello per Stephen Curry e Lindsey Vonn. Curry, 27enne asso dei Golden State Warriors, campioni NBA e predestinati al bis, si fa beffe dei giganti dal basso dei suoi 191 centimetri e forte di una tecnica e una conoscenza del gioco che già lo fanno paragonare al mito supremo dei canestri, sua maestà Michael Jordan. E che dire della Vonn? Ingemar is such a legend in skiing and in sports in general. L'unico paragone possibile con lei, scia e piedi, va cercato in campo maschile e risponde al nome di Ingemar Stenmark, l'uomo più vincente nella storia della Coppa del Mondo. Ma più che il palmarès, di Stephen e Lindsey stupisce l'inesauribile voglia di vincere, di migliorarsi, di superarsi. Campioni che duellano con se stessi per superare i limiti di tutti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo un attimo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra poco, parleremo soprattutto della situazione del maltempo che sta investendo l'Italia, e ovviamente su questo una correzione che è arrivata subito via WhatsApp e via SMS dagli ascoltatori. Ovviamente ho detto Panaro per parlare del fiume dell'Emilia Romagna, tra l'altro affluente del Po. Ovviamente è Panaro, piccolo errore, mi perdonerete, proprio del Panaro, oltre che degli altri fiumi dell'Emilia Romagna parleremo tra un attimo. Traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: sono 30 i feriti negli scontri al confine tra Grecia e Macedonia, i profughi ammassati alla frontiera hanno sfondato la barriera di protezione, ci sono stati appunto scontri con le forze di polizia. Sono 6 le vittime per l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, 5 persone al sud, poco fa la notizia di una donna che ha perso la vita nel Cuneese, allerta per i fiumi in Emilia Romagna. A Mosca una donna ha ucciso una bimba e l'ha decapitata, poi in mezzo alla strada ha urlato alla Akbar, era la babysitter e lavorava con la famiglia da un anno. La notte degli Oscar porta 2 statuette molto attese, premio alla colonna sonora per Ennio Morricone nel film di Tarantino e finalmente quello per miglior attore protagonista a Leonardo DiCaprio. E torniamo dunque alla situazione del maltempo e facciamo un punto con 2 persone che stanno lavorando in questo momento su tutto questo. Innanzitutto Maurizio Mainetti, che è direttore della Protezione Civile Emilia Romagna. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno Mainetti. Allora, abbiamo, da quel che abbiamo capito, c'è un po' di allerta per il livello dei fiumi, sono stati chiusi dei ponti, ci dà un quadro sinteticamente generale? Sì. Allora, i fenomeni che si sono verificati fra ieri, da ieri l'altro a questa mattina e ancora in corso sono sostanzialmente quelli previsti già da 2 o 3 giorni, e cioè una pioggia che era prevista intensa dal Bolognese fino al Piacentino, quindi tutta la zona centro-ovest della regione, e una situazione di mare grosso, quindi mareggiata sulla costa. Quello che si è verificato sono prima in quota una nevicata, poi è piovuto e quindi abbiamo avuto dei valori importanti di pioggia fino a 140-150 mm, con dei picchi orari, dei picchi notturni nell'ultima notte di 50-60 mm, sì, nella fascia collinare. Questo ha portato delle piene nei corsi d'acqua, sì, piuttosto rilevanti, tant'è che noi siamo in diversi corsi d'acqua nella fase operativa di allarme. Questo non significa che ci sono pericoli di sormonto degli argini, quindi di esondazioni, sì, ma gli argini che come sappiamo in pianura trattengono in modo pensile, diciamo, l'acqua che passa nei fiumi, sono tutti stressati da questi alti livelli, sì, idrometrici, e quindi è necessario mantenere un monitoraggio continuo, E soprattutto è stato necessario nei punti più critici, in particolare nel Modenese, in prossimità del Secchia, diramare alcune indicazioni alla popolazione di riportarsi ai piani alti o di chiusura di alcune scuole o di chiusura di ponti in via cautelativa. In via cautelativa. Che cosa si attende per le prossime ore dal punto di vista meteo e quindi evidentemente con un impatto eventuale anche sul livello dei fiumi? Ma dunque, noi abbiamo ancora in previsione fino alla serata e nottata qualche pioggia sotto forma di rovescio, ma in attenuazione notevole, quindi non si prevedono ulteriori picchi di piena. Prevediamo invece un mantenimento dei livelli idrometrici alti nelle zone di pianura, per cui è necessario mantenere una grande attenzione, una grande prudenza da parte dei cittadini e un forte monitoraggio da parte delle strutture tecniche coadiuvate dal volontariato di protezione civile. Benissimo, speriamo che vada tutto bene nelle prossime ore. Grazie a Maurizio Mainetti, direttore della protezione civile Emilia Romagna, e abbiamo Gabriella Casertano, che è responsabile della sala operativa della protezione civile del Lazio, invece, dove un po' di problemi sembra di capire che si siano verificati soprattutto a Roma nelle ultime ore, come spesso accade inevitabilmente in una grande città quando le precipitazioni sono forti. Buongiorno Casertano. Buongiorno. Eccoci. A tutti. Che cosa è successo? Praticamente nel tardo pomeriggio di ieri, nella serata, nelle fasce costiere sia della provincia romana ma anche della provincia di Latina, gli eventi meteorologici connessi anche a delle forti raffiche di vento hanno causato la necessità di andare a rimuovere gli ostacoli presenti sulle sedi stradali, ripristinare le condizioni di sicurezza con interventi importanti delle organizzazioni di volontariato che sono state presenti anche. 200 interventi solo nel Lazio, mi sembra di aver capito più o meno. Sono stati le organizzazioni di volontariato presenti, sono state molte, gli operatori presenti hanno sì anche 150 volontari sono stati attivi sul territorio fino a tutta notte. Le situazioni più gravi e più in qualche misura preoccupanti, ovviamente. Che le situazioni sono stati tutti interventi diffusi sul territorio, molti e molto diffusi. Non ci sono state delle situazioni particolarmente complesse da gestire, ma la complessità era nel numero e nella dislocazione territoriale, certo, che ha interessato, appunto, come dicevo, la fascia costiera della provincia di Roma. Aprilia è stata interessata da notevoli interventi e anche nella parte della Pontina e quindi della fascia costiera della provincia di Latina sono state molte le situazioni di disagio che hanno costretto poi ad operare i volontari e ovviamente in supporto agli enti preposti. Senta, stessa domanda per lei, prossime ore che cosa si prevede dalle vostre parti? Per le prossime ore abbiamo attualmente diramato un prolungamento della fase di attenzione fino alle 14 di domani, che più che riguardare problemi legati a un peggioramento delle condizioni meteo è appunto di attenzione rispetto ai bacini e a rischio idraulico che potrebbe interessare il territorio laziale. Sono in monitoraggio con il centro funzionale regionale e i presidi sul territorio. La ringrazio, grazie a Gabriella Casertano, responsabile della sala operativa della Protezione Civile del Lazio. Noi adesso ci fermiamo e come sempre a quest'ora andiamo a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione abbiamo una serie di argomenti da toccare, a partire appunto dalle decisioni che dovrebbero arrivare dalla Lega e soprattutto dai gazebo della Lega sul candidato sindaco di Roma. Dovremmo avere il nome a breve. Parleremo di quest'ipotesi governativa che sta circolando di tagliare l'IRPEF già nel 2017, questo tra le altre cose, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: sono 30 i feriti negli scontri al confine tra Grecia e Macedonia, dove i profughi ammassati hanno sfondato la barriera di protezione. 6 le vittime per l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, 5 persone al sud e una donna nel Cuneese. A Mosca una donna ha ucciso una bambina e l'ha decapitata, poi in mezzo alla strada ha urlato Allah Akbar. La vittoria dei riformisti in Iran, hanno ottenuto la maggioranza nell'assemblea degli esperti, quella che dovrà eleggere la nuova guida suprema. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Dovrebbe essere arrivata una qualche indicazione dal leader leghista Matteo Salvini, che ieri appunto ha fatto raccogliere firme, indicazioni per il candidato sindaco a Roma della Lega. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta per capire se adesso finalmente abbiamo la notizia o ne sappiamo qualcosa di più. Vincenzo. Sì, di nuovo buongiorno, ne sappiamo sicuramente qualcosa di più, la notizia Simone c'è ed è la seguente: nessuna stravinto e nessuna straperso, ha detto poco fa Salvini, che però necessariamente a metà dello spoglio, oltre, siamo intorno al 60% della consultazione, ha fornito questa classifica: 1450 voti per Marchini, 1300 voti per Pivetti, e questa è la sorpresa, 1250 voti per Storace, 1050 voti per Bertolaso e poi 950 gli altri, tra questi la Meloni. Questa la classifica fatta da Salvini, ma la notizia, il dato politico che il leader della Lega ha voluto comunicare e lanciare agli alleati del centrodestra è il seguente: fermiamoci a ragionare, Roma è troppo importante per consegnarla a Renzi. Questi numeri che lui stesso ha spiegato, ha fornito, danno l'idea che il popolo del centrodestra non ha ancora un'idea chiara. Sentiamo su questo un passaggio proprio della conferenza stampa. Ad oggi nessuno vince e perde il centrodestra, perché se questi 15.000 sono un campione di cittadini romani, questi 15.000 sono divisi per 4. Poi uno può arrivare al 19% e uno fermarsi al 13%, sono percentuali che non servono. Altro dato interessante fornito da Salvini, Simone, per quanto riguarda le Olimpiadi, coloro che si sono recati ai banchetti della Lega sarebbero contrari alle Olimpiadi, il 54% contro il 46%, e poi le priorità per la città: sicurezza, pulizia e decoro, manutenzione stradale. Simone. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. E noi restiamo in tema di politica a questo punto per due temi che si incrociano. Quel caso che sta facendo discutere in queste ore, che è quello di Niki Vendola, il leader di Sela, ha avuto un figlio negli Stati Uniti tramite la maternità surrogata, il padre biologico e il suo compagno, mentre il PD annuncia per la settimana l'arrivo del famoso DDL sulle adozioni. Sentiamo. Superati i contrasti sulle unioni civili, adesso sono le adozioni a dividere la maggioranza. Dopo lo stralcio della stepchild adoption dalla legge Cirinna, il Partito Democratico annuncia che a breve presenterà un disegno di legge per renderle possibili anche a single, coppie di fatto e coppie gay. Un'iniziativa che non piace affatto ai centristi di Area Popolare, che annunciano il loro no alle adozioni per tutti. Il patto era un altro, ammonisce Alfano. Nel frattempo diventa un caso politico anche il figlio avuto da Niki Vendola e dal suo compagno attraverso una maternità surrogata in California. Contro il leader di SEL è arrivato un duro attacco dal leghista Salvini, che parla di disgustoso egoismo. Non c'è volgarità degli squadristi della politica che possa turbare la grande felicità che la nascita di un bambino provoca, e la replica di Vendola. All'ex governatore pugliese vanno la solidarietà e gli auguri del centrosinistra, ma anche di alcuni esponenti del centrodestra, che ribadiscono comunque la loro contrarietà all'utero in affitto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è anche un tema di politica economica che si impone in queste ore e riguarda il governo, che sta ragionando su quali possano essere le strategie fiscali dei prossimi mesi. Tra le idee inizia a circolare quella di un taglio dell'IRPEF già dal 2017. Lo dice Mario Draghi, ne parlano i leader del G20, ne è convinto il Premier. Per aiutare la crescita, che in Europa stenta ancora, bisogna intervenire anche sulle tasse. L'appuntamento è fissato per il 12 marzo, quando a Parigi si riuniranno gli esponenti del PSE, i socialisti europei. In quella sede e in vista del Consiglio europeo del 17 marzo, Matteo Renzi metterà all'ordine del giorno una bozza di lavoro sul fisco, all'interno ovviamente di una politica europea coordinata e di una certa flessibilità sui conti, senza sforare il tetto deficit PIL al 3%. Ciò si potrebbe tradurre in Italia con un anticipo del taglio dell'IRPEF al 2017, anche se sicuramente presto per dirlo, fa sapere il viceministro dell'economia Morando. Al momento Palazzo Chigi lavora sul programma già iniziato, che prevede la riduzione da gennaio 2017 dell'IRES, l'imposta sul reddito delle società, il blocco dell'aumento dell'IVA per 3 anni e l'alleggerimento dell'IRPEF dal 2018. Senza dimenticare la riduzione del cuneo fiscale, da sempre uno degli obiettivi del governo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Papa ha ricevuto come consuetudine il cardinale australiano George Pell, attuale prefetto per l'economia. Ieri il porporato ha testimoniato in videoconferenza dall'Hotel Quirinale a Roma davanti alla commissione d'inchiesta australiana sulle risposte delle istituzioni agli abusi sessuali sui minori. La Chiesa cattolica ha commesso errori enormi, ha causato gravi danni in molti luoghi, ha deluso i fedeli, ma sta lavorando per rimediare. Collegato da Roma in videoconferenza con l'Australia, dove non si è recato per motivi di salute, con la commissione d'inchiesta sugli abusi sessuali, il cardinale Pell, già arcivescovo di Melbourne e poi di Sydney, non ha usato giri di parole. Il prefetto della segreteria per l'economia della Santa Sede ha ammesso che l'istinto in quegli anni, 1970-1980, era proteggere dalla vergogna la comunità della Chiesa. Ha definito una catastrofe la decisione di trasferire da una parrocchia ad un'altra Risdale, il prete pedofilo seriale condannato per 138 reati ai danni di 53 vittime e suo collaboratore. Ha tuttavia ribadito di non essere a conoscenza degli abusi commessi nella sua diocesi, circostanza contestata da alcune delle vittime di pedofilia recatesi a Roma per assistere alla prima deposizione grazie ad una raccolta fondi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sempre la puntata di Effetto Giorno del lunedì è particolare perché c'è in lieve anticipo America 24 e un po' più breve con il nostro Mario Platero. Poi a partire dalle 13.45 è in onda la nostra trasmissione sull'autotrasporto. Quindi sentiamo il nostro Mario Platero che ci parla di Oscar. Ci risentiamo alla fine per i saluti.